Se sei stanco, sei stressato dalla vita tua in città, se anche il calcio ti ha fregato e ti devi un po' staccar, chiudi tutto, scendi in strada, quattro passi e vieni qua. Qui c'è un mondo incredibile, vedrai. Siamo i libri, punto e virgola, tutto questo puoi trovare. Fantastorie e avventure, sulla luna o in mezzo al mar. Ti diverti, ti appassioni, voli con la tua fantasia, senza spendere milioni, prendi un libro e voli. Siamo i libri, punto e virgola, siamo qui tutti perché devi solo aprirci un poco e scoprirai che dentro di noi